Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Cogliere questa prima domenica di maggio per parlare di rose, il fiore, e questo è il suo mese. Bentrovati a Giardino Segreto. I rosetti in questo momento sono uno spettacolo e alle mostre mercato di primavera avremmo potuto sorprenderci e godere delle novità. Ma rimediamo alla radio perché ho in linea un membro della famiglia Barni che in Toscana coltiva e crea nuove rose da oltre un secolo. Potrà presentarci le novità, parlarci di quelle più facili da coltivare in città anche in vaso e anche spiegarci come evitare i problemi in termini di malattie che delle volte o spesso, a seconda delle rose che abbiamo, possono darci questi fiori intramontabili. Buona domenica a Vittorio Barni del vivaio pistoiese Rose Barni. Buona domenica. Eh sì, cara Roberta, proprio centrato il problema del momento. Noi in quest'epoca saremmo in giro per l'Italia a portare le nostre piante fiorite, le nostre nuove creazioni e a presentarle al grande pubblico nei giardini pubblici oppure nelle ville più importanti. E fortunatamente siamo riusciti ad organizzarci tramite l'online e a presentare alcune delle nostre varietà più interessanti al grande pubblico. In particolare sono due quelle che più di tutte hanno colto l'interesse. Una è la Twilight Zone, che è una bellissima grandiflora dal colore blu violaceo molto profumata, e l'altra è una varietà che si chiama Gorgeous, fiore enorme, bicolore, rosa e giallo. Sono due varietà inedite per il mercato italiano. E sono due varietà, tra l'altro, molto compatte. Cosa intendo? Intendo che non sono cespugli che tendono a filare molto, a diventare molto lunghi, e quindi sono assolutamente adatti anche alla coltivazione in vaso per i terrazzi e per i balconi. La Twilight Zone, la zona del crepuscolo, e la Gorgeous, la bellissima. Le rose Barni che avremmo potuto ammirare nelle mostre mercato 2020 non lo possiamo fare, però noi contiamo sulla sua capacità di descrizione, cioè le faccia vivere con le parole. Sì, la Twilight Zone, come dicevo, fa dei fiori mediamente grossi ed è un colore molto particolare, inusuale per le rose, perché è un blu violaceo. In certi momenti dell'apertura del fiore risaltano queste striature blu. E il fogliame è un verde chiaro e la pianta più o meno alle dimensioni di un metro e 10 per 50 di diametro. Stesse dimensioni della Gorgeous, che però ha questo colore brillantissimo dal rosa carico e sul bordo con questo giallo limone che spicca molto. Varietà molto interessante proprio per la grandezza dei fiori e per la compattezza anche qui della pianta. Fiori importanti, insomma, qualche volta bisogna esagerare. E quanto sono grandi i fiori? I fiori hanno tutte di entrambe un diametro più o meno di 8-10 centimetri, quindi si parla di fiori adatti anche ad essere residui, messi nei vasi che durano a lungo perché il petalo è un petalo duro, è un petalo turgido, e di conseguenza sono molto adatti anche per essere messi in casa fiori, ecco. Quindi due rose anche da città, anche da vaso, da terrazzo, da balcone, naturalmente da mettere in posizione soleggiata, luminosa, almeno 3-4 ore di sole al giorno. Ma ci parlava della Twilight Zone, di questa rosa blu violacea, che è un colore piuttosto insolito. Sì. Ora negli ultimi anni alcuni ibridi nuovi stanno uscendo su queste colorazioni, però sono tutti ibridi recenti dell'ultima decade, degli ultimi 10-12 anni, perché prima non esistevano. Questo è un colore che non è assolutamente spontaneo per la rosa, è frutto degli incroci, delle ibridazioni dei più importanti ibridatori mondiali, fra cui noi stessi, che attualmente in Italia siamo gli unici nel settore. Rose viola, stese sulle lenzuola, come tutte le notti in cui te ne stai da sola, Vittorio Barni, Rose Barni a Pistoia esiste da 4 generazioni, è un vivaio secolare, possiamo dire, quindi l'evoluzione delle rose voi la conoscete bene, perché tra l'altro voi le rose non soltanto le offrite, voi le create. Esattamente, per quello che riguarda il settore delle piante da giardino siamo gli unici ibridatori italiani e di conseguenza noi, oltre ad avere tutta la fase della produzione, attualmente produciamo annualmente circa 230-250.000 piante di rose, abbiamo delle serre dedicate appositamente agli incroci in cui andiamo ad ibridare delle nuove specie per ottenere sempre qualcosa di nuovo, di interessante per, da mettere nei nostri cataloghi e da offrire al nostro pubblico. Io non riesco neanche a salvare le mie rose dai bruchini e voi invece le rose le create. Ed è un lavoro che dura anni. Sì, ha detto proprio bene, in quanto questo è un processo assolutamente naturale, non c'è niente di studiato in laboratorio, praticamente non succede altro che noi ci sostituiamo alle api, detto proprio nella maniera più semplice e comprensibile possibile, ossia andiamo ad ibridare con un polline di una varietà determinata le nostre piante madri e attendiamo poi che queste vadano ad essere pronte, feconde, cioè a dare il seme. Da lì iniziamo a valutare tutti questi semi ed è un percorso, come ha anticipato lei Roberta, piuttosto lungo, perché si parla più o meno di 6-7 anni, prima di poter avere degli esemplari, delle piante sufficienti per poter andare in commercio. La rosa preferita made in Pistoia di Vittorio Barni? Ah, guardi, in assoluto fra le mie preferite ci sono quelle legate ai grandi nomi della moda che negli anni abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di incontrare come clienti, come amici e a cui abbiamo dedicato delle determinate varietà. Ad esempio la Banda Ferragamo o l'Anna Fendi o la Valentino sono tre ibridi strepitosi, tutti e tre a fiore grande, tutti e tre rifiorenti, e che portano degnamente questi nomi importanti della moda. Ecco, tornando alle rose novità 2020 di cui ci parlava la Twilight Zone e la Gorgeous, se alle mostre mercato si fosse presentato qualcuno che non ha esperienza, insomma qualcuno che le rose soltanto le sogna ma non ha molte capacità, gliele avreste consigliate oppure no? Guardi, lo scopo di noi ibridatori, di noi ricercatori, è innanzitutto dare la possibilità a chiunque di coltivare le proprie piante. Che cosa intendo? La ricerca va sempre più verso piante estremamente sane, estremamente semplici da coltivare. Perché? Questo per due ragioni. La prima, proprio perché il nostro intento è quello di migliorare la categoria rosa. E la seconda è perché, come tutti chiaramente sanno, si va verso un impatto zero anche di insetticidi e quant'altro ci sia da spruzzare. Per cui si cerca sempre di più le piante più facili e più sane. E queste due ultime sono assolutamente fra queste. Quindi le possiamo ordinare perché sono resistenti, quindi ruggine, malattie fungine, foglie mangiucchiate, foglie macchiate, perché lei lo sa, no, quanti problemi abbiamo con le rose, no? Passa qualcosa e ne viene un'altra. No, io ho qui Vittorio Barni di Rose Barni, a nome di tutti i giardinieri in erba io la devo sfruttare. Assolutamente, guardi, di per sé sono varietà sane, come dicevo, soprattutto quelle recenti sono le più sane. Ora, è anche vero che comunque sia non è possibile alterare i cromosomi della rosa. Che cosa intendo? Che se l'umidità aerea è molto accentuata ed in certi posti magari più che in altri, è necessario comunque andare a fare una piccola azione preventiva, ma con prodotti assolutamente da coltura biologica. Intendo il vecchio rame e un po' di zolfo bagnabile per tenerle pulite dalle fungine. Ecco, quindi niente di assolutamente invasivo o complicato. Allora, il rame zolfo, lei copre le fungine. Nel caso in cui si andasse incontro a problemi di natura parassitaria, come il pidocchio o come il bruchino a cui ha accennato che tende a mangiare il fogliame, lì dobbiamo ricorrere a degli insetticidi. Insetticidi che fortunatamente si trovano in commercio anche in forma molto naturale. Io penso ad esempio all'olio di neem, piuttosto che ai prodotti a base di piretro, e quelli fortunatamente basta spruzzarli alla bisogna, ossia quando si presenta il parassita. Non è necessaria un'azione preventiva come magari in certe situazioni di umidità estrema è consigliabile fare per i funghi. Io dico la verità, l'olio di neem sulle mie rose l'ho messo, ma poi alla fine i bruchini li ho tolti con le mani. Guardi Roberta, i prodotti biologici funzionano, però rispetto al chimico è la frequenza che deve essere maggiore. Che cosa intendo? Se il chimico uno lo spruzzava e teneva coperte le proprie piante per 30, 40, 50 giorni, con il biologico magari bisogna insistere, anche una volta ogni 7-10 giorni bisogna ripetere il trattamento. Tutto sta all'esposizione, alla zona dove sono le nostre rose, ecco, tutto qua. E l'oidio, quella ragnatela bianca che soprattutto quando c'è umidità a un certo punto ricopre le nostre rose? L'oidio fortunatamente si copre, come le dicevo, col biologico, con un prodotto a base di zolfo, il famoso zolfo bagnabile, quello lì diluito in acqua assieme al rame ci permette di tenere pulita la pianta e dalla macchia nera e dall'oidio. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino, salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Torniamo con il giardino segreto tra un attimo, altre rose stanno per arrivare. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza, la volta in cui abbiamo conosciuto la morte. Tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati. A volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che nel bene o nel male ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Il giardino segreto. Se a me non mi credete, entrate in casa mia. Tre sedie sgangherate e un seggio tacconà. E l'affitto della casa l'è ancora da pagare. Ma le rose d'ogni mese le voglio per cantare. Parapapara. In momenti di lockdown i fiori possono aiutare e le rose non deludono mai. Ci sta portando in questo mondo Vittorio Barni, dello storico vivaio pistoiese Rose Barni, il sito è rosebarni.it. Le novità di cui ci ha parlato prima sono adatte a tutti, ma Vittorio Barni ci svela quali sono le rose in assoluto più facili da coltivare, quelle che possiamo portarci sui balconi o nei piccoli giardini di città senza un pensiero. Guardi, noi a tal proposito ci siamo inventati una sorta di categoria di varietà praticamente che si fanno da sole, diciamo, cioè che non hanno bisogno di grossi interventi anche di potatura, di pulizia dei fiori sfioriti durante la stagione. E questa categoria l'abbiamo chiamata ecorose, proprio perché sono varietà che a meno di situazioni di umidità drammatica non hanno bisogno né di trattamenti né di pulizia da un punto di vista di potatura, tranne una piccola potatura magari una volta l'anno, a gennaio-febbraio, quando è il momento della potatura per tutte le rose. Le ecorose, ricordiamoci questa categoria. Della potatura neanche le chiedo, però io devo dire che da questo punto di vista le rose mi sembrano molto resistenti, cioè sembrano in qualche modo sempre rinascere da se stesse. Guardi, la rosa, a differenza di quello che si può immaginare, è una delle piante più resistenti in natura. Infatti, se lei pensa, lei trova rose a 1000 metri di altezza, come ai caldi quasi desertici. Quindi è una pianta assolutamente duttile. Certamente, come tutte le piante del mondo, un minimo di manutenzione gli va fatta. E nel caso della rosa, e in special modo delle varietà moderne a cespuglio, una potatura annuale a gennaio-febbraio per la cosiddetta potatura di rinnovo, è necessaria proprio per mantenere il nostro cespuglio bello di anno in anno. Sai, la bellezza è silenziosa, delicata e forte come cinque petali di rosa, che non cadono mai, e se dovessero cadere già lo sai, rimarrebbero i colori e il ricordo dentro un vento caldo. Noi stiamo parlando di rose adesso perché è il loro mese, però dobbiamo sottolineare che le rose non si offrono soltanto a maggio, tantissime sono rifiorenti. Assolutamente, ad esempio la Twilight Zone e la Gorgeous di cui abbiamo parlato prima hanno una fioritura continua, iniziano a fiorire da maggio e vanno avanti con la fioritura fino al tardo autunno. Fortunatamente tutti gli ibridi moderni, e per ibridi moderni si intende le varietà a partire dal Novecento in poi, hanno la caratteristica di una buona rifiorenza. Le varietà più recenti sono addirittura estremamente rifiorenti. Si parla di fioritura unica solo per alcuni gruppi, forse la maggior parte, delle varietà cosiddette antiche. Gli ibridi di rosa gallica, le alba, le centifoglia, le damascene, tutte queste vecchie rose esauriscono la loro fioritura con aprile-maggio. Rose antiche di cui c'è chi è pazzamente innamorato. Io penso a Maresa del Bufalo, la signora delle rose di Valleranello, lei ama solo quelle. In giardino ha qualcosa come 1000 rose antiche diverse, però le moderne sono rifiorenti. Guardi, noi produciamo più di 100 varietà di rose antiche, proprio per incontrare anche l'amatore più esigente, perché nonostante i numeri a livello di produzione per noi siano molto molto inferiori, perché chiaramente oggigiorno la gente, fra le prime caratteristiche che ti chiede in una rosa è che rifiorisca, noi da sempre abbiamo cercato di accontentare il pubblico dell'amatore che ricerca la determinata varietà antica, la determinata varietà con quella tipologia di fiore, con quella tipologia di vegetazione, perché comunque è anche giusto accontentare tutti quelli che hanno esigenze più particolari rispetto a quello che è il mondo della rosa, e quindi magari vanno a ricercare la varietà più rara, ecco, diciamo così. Qual è, Vittorio Barni, l'esigenza di rose in questo momento così drammatico? Anche solo parlarne, secondo me, può farci volare con la fantasia, ci può rasserenare, però anche averle di nuove, insomma, in casa, come vanno gli acquisti online? Guardi, Roberta, io colgo l'occasione per ringraziarla, la mia clientela, e dico questo perché lei non ha idea di quanti in questo periodo così drammatico chiedono le nostre piante a casa. Le ragioni chiaramente sì, sono legate anche a un discorso di costrizione, ma io da quello che ho colto anche dalle telefonate che ogni tanto mi capita di prendere, io colgo proprio la voglia della gente a casa di concentrarsi su qualcosa di bello, su qualcosa che comunque arricchisce non solo gli occhi ma anche l'anima. Perché una pianta di rose fiorite, la coltivazione di un giardino, la coltivazione di un orto, sono tutte cose che ci fanno bene all'anima. E questo non lo dico per fare un discorso ridondante, lo dico perché è così, è veramente così. La gente oggi riesce a concentrare le proprie attenzioni sul suo pezzettino di verde, sul suo angolino di verde, e questo, le assicuro, è veramente non solo un diversivo per la mente, ma anche un qualcosa che arricchisce il cuore. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Lei è nel Pistoiese, che è un distretto importantissimo in Italia in fatto di fiori. Come sta vivendo il distretto questa crisi? Il mercato pistoiese io mi considero un po' una mosca bianca. In che senso? Noi siamo fra i pochissimi a lavorare direttamente col privato in Italia. Il 95% delle aziende pistoiesi e sono in tutto circa 1200, lavorano con l'estero e lavorano con i rivenditori, lavorano con i grossisti, quindi certamente per loro l'impatto è stato ancora più duro, perché è vero che anche noi lavoriamo con i garden, però certamente rispetto ad altre aziende noi abbiamo sempre servito il cliente finale, e quindi in questo periodo bene o male siamo riusciti un po' a rimanere a galla. Per tanti invece la situazione è molto più complicata, molto più drammatica, ecco, questo va detto. Credo che per fare un bilancio dei danni, nella migliore delle ipotesi, bisogna andare a fine anno, ecco, per vedere, per fare dei conti su quello che è stato. Ma e per noi stessi i problemi ci sono e ci sono stati, perché chiaramente per me quella è una parte, una fetta di mercato importante, una fetta di lavoro importante, quella dei garden, quella dei rivenditori, e adesso tanti esercizi commerciali stanno riaprendo, riapranno dal 4 di maggio in poi, ma che per un mese e mezzo sono stati chiusi e quindi non hanno lavorato, e quello per me è tutto lavoro perso, che sicuramente non si recupera. Insomma, non possiamo fare miracoli, però gran parte dei vivai è in rete, cerchiamo anche quelli più piccoli, quelli più vicino a casa, regaliamoci piante, fiori, farà bene a noi e naturalmente farà bene a chi questi esseri vivi li produce. Prima di lasciarla andare vorrei farle un'ultima domanda, anche per regalarci un po' di serenità leggendo. Quale libro sulle rose ci consiglia per farci diventare minimamente esperti? Guardi, non è per farci pubblicità, però l'ho scelto volentieri perché l'ha scritto mio nonno, che chiaramente è quello che poi mi ha trasmesso l'amore per le piante, l'amore per questo lavoro. È il nostro libro, che è quello più tecnico, quello proprio dove ti spiega qualche piccolo segreto, anche proprio le modalità di trapianto, di coltivazione, di potatura, si chiama Sublime Rosa. Ed è un libro che dettagliatamente aiuta l'amatore nelle lavorazioni del giardino per coltivare le sue piante come si deve. Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Sublime Rosa di Vittorio Barni Malnonno e Carlo Medici, Edizioni ed Agricole, il libro per saperne di più sulle rose. Ma questo è anche periodo di azalee rododendri, domenica prossima è la festa della mamma e le azalee di AIRC a favore della ricerca sul cancro, se non nelle piazze, quest'anno sono su Amazon e quindi possiamo sceglierle come regalo. Grazie per avermi seguito, vi aspetto domenica prossima con il Giardino Segreto a metà pomeriggio alle 15:30, ma possiamo incontrarci quando volete perché tutte le puntate sono riascoltabili al sito radio24.it. Ci risentiamo in fase 2. Restiamo ottimisti e prudenti. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.